chissà cosa farà adesso che non ha più me. Chissà se scorderà i giorni che passò con me, con me. Chissà quando la incontrerò, chissà se mi sorriderà, chissà se vorrà perdonarmi ancora. Chissà cosa farei se fosse qui vicino a me. Potrei giurarle che non la farei soffrire più, mai più, perché io cambierò per lei, perché so che appartengo a lei, perché la ragione di tutta la vita è solo lei, per me.